English Bit di Giulia Crivelli. Law. Sisters in Law. Il New Yorker ha intitolato così un titolo da Jeddah di Catherine Zoepf sulla condizione delle donne in Arabia Saudita. Si tratta di un gioco di parole perché letteralmente sisters in law significa cognate, ma qui l'uso della parola law, legge, suggerisce una traduzione, almeno mentale, più letterale, qualcosa come sorelle grazie alla legge. Il riferimento è ai recenti spiragli sulla libertà delle donne nel paese, in particolare grazie alle maggiori possibilità di informazione e istruzione. Saudi women are beginning to know their rights. Le donne saudite cominciano a conoscere i loro diritti. Ma veniamo alla parola law, legge. Moltissime le espressioni gergali e non che possiamo citare, molte delle quali hanno un equivalente più o meno simile in italiano. Jim is always getting into trouble with the law. Jim si mette sempre nei guai con la legge. Oppure, in Sweden is against the law to hit a child. In Svezia la legge vieta di picchiare i bambini. Poi ci sono le laws of supply and demand, le leggi sull'offerta e la domanda, oppure la law of gravity, la legge di gravità, o la law of the jungle, la legge della giungla. Per tornare a similitudini con l'italiano, in inglese si può dire do not think you are above the law. Non pensare di essere di sopra delle leggi, di godere di immunità. E vediamo alcuni usi più particolari, partendo dal titolo di una delle serie televisive americane più longeve e con il maggior numero di spin-off, Law and Order, nata negli Stati Uniti ma poi copiata anche nel Regno Unito, anche se i due sistemi legali sono un po' diversi. L'espressione da sola significa a situation in which people obey the law and behave in a peaceful way, una situazione in cui le persone rispettano la legge e si comportano in modo pacifico. Quanto agli aggettivi, law abiding è una persona che rispetta la legge, law breaker uno che la infrange, lawful significa legale, lawless letteralmente senza legge, the lawless days of a revolution, i giorni senza leggi che caratterizzano una rivoluzione. Come sostantivi segnaliamo lawsuit, causa legale, e lawyer, avvocato. He filed a lawsuit against his record company. Ha fatto causa alla sua casa discografica.